versione di 90 sulla pelle. Meccanica. Non metterò un nascio. Sì, avanti. Non metterò un nascio. Andate con nascio, ya. Ma così è. Ehi, buonasera, buonasera. Dore. Buonasera anche a lei. Allora, come va? Da un piede all'altro. A papà non è entrato nessuno? Oi, sto appena entrando, ho sentito la portante tua. Cappa. Oh, mamma mia, esci che mi bosso in antaruretto, già. Tanto la stazione vi raggiù. Vizzino. Ma è barunetto vicino un muro. Allora. Sì, da te. Vabbè, è una casa un poco particolare. Sopra per un coso, un soppacco, beh. Cioè, come te camera da letto va giù un coso, un soppacco tutto in legno, bello. E come ci dici? E sotto va giù la guzzina e tutto canto, è un poco particolare come te casa, ma già va bene per me. Così è, meglio così allora. Scappa. Minoretta, non so cubire la tidotti io. No, ti sei trasferito. Cappa, sono in zona Corso Vicco, prima abitava la tidotti. Aspetta, chi è che vuole entrare? Se vuole una portante, ma voi non entrano. E cosa ne so io? Chissà, boh. Andiamo bene, andiamo. E venta che si abbassa, finne. Ma qua si sta bene. Dico, qua a casa si sta bene, c'è caldo. In casa sì, ma quando c'è fuori si sta di mare. Cappa, abbiamo dato l'antenna, pare che tenga. Vabbè, già non è assai manna, non è? Un'antenna da un metro. Così è, da un metro. Cosa c'hai, una frusta nera? No, una Storm 27. Ah, ho capito. Comunque stai arrivando bene qua. Cappa, sul tetto è... Sei abbastanza forte, 9-10 mi stai arrivando. Cappa, adesso cubro normale, non è che già... non vado attaccato nulla. Ma già va bene. Meglio così. Cappa. Ho bucato il tracco, ho travagliato stamane. Quando si lavora la mattina, la sera sei un po' stanchi. Vabbè. Parlo Giammarino. Buonasera. Lascia la portante un attimo. Aspetta che c'è cosa che stava parlando. Aspetta che te lo mando avanti. Ma lo senti a Gio Maria? Negativo, Gio Maria! Alto, buonasera, bebè! Buonasera! È certo che lo sento! Tu pure, ma sembra che stai uscendo bene! Certo, da lì è una canonata, sì! Ti arrivo bene lì a latte dolce, no? Mambo! Otto! Ti lascio la portante un attimino, dopo mi dici com'è anche la radio, va bene? Lascio la portante. Alberto! La radio è buona, anche il segnale è buono. Ma rumore c'è sulla portante? Multa? Non intendo. Manco io, non sento nulla, è pulita. Oh, sai uscire da tratti, e a scariche di sento io. A scariche? E non può essere perché il segnale è buono da me. A scariche, ti sento a scariche. Allora vuol dire che l'antenna tua c'è qualcosa. Perché qua sta funzionando tutto bene. Tu, Atto, come lo senti? Atto. Ma come lo senti, Atto? Perché stavo prendendomi il telefono. Dimmi, Gio Marì. Ho detto, come lo senti, attore? Sto, lasciala portarti un attimino. Guarda a vedere. No, non ho sentito tipo di problema. Boh, bene mi senti a me. E a voglia. Qua sei 9 più 20 in radio 5 sei. Perché attore lo sento tratteggiato, boh, strano, a te ti sento perfetto, attore lo sento tratteggiato. Lo so, qua arriva bene. Boh, io devo dire. Vai tu. Caspita, se mi dai vita al susto. Ma insomma l'aveva detto Antonio poco fa, me l'aveva detto. Io devo dire, io ti sento la cazzo. Antonio lo sento bene, attenti, senza tracci. Come significa questa questione? Ah, boh, non lo so, no. Non faccio nulla. No, io non ho nessun tipo di problema, ti sento bene sia a te che a Gio Maria qua. Gio Maria, quando ti arrivo lì a Latte Dolce? Forse. Sei quasi 9, sì, 9 qualcosa, dai. K, dai. Vabbè, è normale, non c'è niente attaccato, la verità. No, va bene, dai. Va bene, io ti sento così, dai, rientro dopo. Ok, io sono perfetto, così. Bello, c'è così. Vabbè, Gianmari, già siamo qua. Ehi. No, poi pure voglio fare un passaggio attaccato. Aspetta, tu, chi è che stava sopramodulando? Il tifoso di Ottava, buonasera, ciao Gianmari, ciao Antonio, ciao Antone. 9-5, Ottava, Gianmari. Come, Mari, buonasera? 9-5, Ottava, Radio 5. Ah, ok, ti lascio la portata un attimino, Com'è? Aumentata la notazione, aumentato, bella. Allora va bene, dai, rientro dopo che sto facendo qualcosa. Come ti sopra, va? Io sono, mi ascolto 2 minuti e poi entro, ora che mi sto finendo di chiudere una cosa e ho terminato, avanti sto. Ok, lasciamo qua. Tanto ti sta salutando Marino. Ma ciao Marino, buonasera. Ciao bambolo, buonasera anche a te. 2 minuti io mi ascolto e sto terminando un lavoretto, ma ho terminato quasi, devo evitare 2 minuti e poi entro, dai. Ok, riprendi il tocco. Ok, ci sentiamo dopo Marino. Fai quello che devi fare, non troppo però Ma il segnale è cambiato adesso. Santiago 7, Radio 5, Ottava, tu. Scappa, e lì alla veloce com'è? Aumentato, A me sei sempre 9-10. Sì, no, già aumentato, già. Adesso arrivi da 9-40. E il mio quanto è, Antu? Sì, scappa. 9.40 sto arrivando adesso. No, 9.20, poi 9.30 va. Perché ti oscilla un pochettino. Cappa. Ma penso che anche da Gio Maria stia arrivando bello a fondo lo sparato adesso. Cos'è attaccato? Che cosa è attaccato? Si è messo sotto accetto, Tore. Sotto accetto Antonio si è messo. Ma non poco, tutto quanto. E io so come ti sto dicendo quando ricevi. Ah, tu ne arrivi 7. Cioè più o meno è perché è digitale questo. Ne arrivi 7-8. Ma non so cosa che antenna c'hai tu, Mari. Un antennino sto usando. Un antennino tu. Cappa. Non penso che abbia una manto, però. No, ce l'avevo, ma l'ho buttata a terra, troppo caldotto mi faceva. Fischiava troppo e aveva problemi la notte, capito? Si capa, è buono di appena a voce. No, comunque non c'è problema, dai. Andare, avanti sto. Si può andare nel mondo, si andiamo, se no oggi non andiamo a piedi. Ok, stavo dicendo, stamattina Bacchisi, l'ha trovato, sì. Cara mia, signor Bacchisi, buonasera, signor Bacchisi. Poi mi stai sopramodulando il signor Marino e Antonio. Ah, sì, 9.30. La radio è buonissima. Che zona è Marino? Bacchisi? Ma che non fa vedere? C'era Antonio, lo ascolti Antonio. Senti? Antonio, lo ascolti a Bacchisi. No, come mai? Ma non è la terra. trovate dolce? Sto arrivando a 9.30 a me, figuriamolo, a te dovrebbe arrivare 9.10. No, non mi arriva, c'è qualcosa, Bacchisio. Oh, qua non c'è segnale, c'è mossa, Bacchisio. Bacchi? Sempre sentito, no. Adesso non lo sento, ha combinato qualcosa, sicuramente. Comunque, Tore, io qui non è arrivato, Bacchisio. Zero, riporto zero. Cos'è, signor Bacchi? Non ci compresi un perché vi siete sopramodulati con Marino. Sì, ok, signor Bacchi, va bene. Avanti, Mari. Sì, Bacchisio non è arrivato, 0.0, nel segnale nel radio, tu. Sì, no, non penso che non abbia già va. Sì, perciò non è arrivato. Lo so, dicevo, scusa, Neanche una lancetta si è accesa, non da zero. Ma poi quando sto toccando con l'antenna che sta facendo... sta sbaraccando tutto, si siede e poi si mette a parlare. Aspetta 5 minuti, aspettiamo. Vabbè, dai, riprendi. Ok, dai. Bene, nera, io non sto arrivando. 9.15 mi stai arrivando. Già, va bene, allora. Anda, beh, qua qui fuscire il PMR. Bene, nera, avanti, bambolo. E a capa, dai. Dai, io vi saluto che... cominciamo a preparare a magna. Ce la risentiamo, dai. Ciao, ciao, Bacchisio. Ciao, te Marino e a tutti quanti. E a tu, mica non siamo a così. Allora hai bisogno, Magni. Guarda pochissimo. Ho preparato un poco prima, devo preparare. Perché va giù niente in casa. Ah, basta così, Antu. Non discuto, ma è nera. Ci sentiamo dopo. Buona preparazione, insomma, dopo, dai. Avanti, Tu. Ok, ciao, Antu. Stammi bene e buona cena. Ok, ti prego, signor Marino. Ma vi raffresca, ok, Antu, sentiamo dopo. Penso, così è. Io fino alle 7 poi mollo perché devo uscire fuori, devo uscire. Bene, ti ho detto, ma chi stanti l'hai sentito, sì? Sì, l'ho trovato che se ne stava andando. Anda. Ehi, vabbè. Cosa stai usando di radio? Quella là? L'autoria che sto usando, l'autoria che ci trovi la metti per i cassini. Certo, se arrivendi invece arrivendi, anche di radio. Era per io ieri, boh, no, non ho capito perché, a giorni è questa qua, boh, e va bene, bene mega. Ma l'ufficio stamattina va chiuso al magazzino? No, è andato via dal garage, è andato via, l'ho trovato nella via seguente. Ok, dai. Ok, no, io lo so, io non sono salito perché sono uscito oggi da riposo, domani lavoro. Sono uscito presto accompagnando un po' da scuola, poi sono andato a fare spesa, fra finora, poi non vado a casa, non riesco più, non ho più voglia. Andiamo, vabbè. Facciamo così, facciamo. Io mi sto cercando di finire uno spettacolo per adoperarlo con l'MP5 a vedere se esce bene. Mi buonisono l'abortante, non esci. Piano piano fare prove, piano piano, sbagliando si impara. E lo scherzoso l'ha piazzato, l'unico. No, non ha piazzato uno perché non ho trovato quello che dovevo trovare. Mi dà, invece di darmi il 6, mi dà il 5. Sì, vabbè, piano piano. Devo ti fare un po' di prove, piano piano già. Troverai tutto quello che ti serve. Fuori pazienza. Mi sono fatto il cavo diretto, sto adoperando quel cavo lì, però sto facendo uno spezzone per quello MP5. Ma non vi riesco. Piano piano, pazienza ci vuole, è più stretto. Lo so Gaccusci. Esattamente. Tanto sempre la malizia in mezzo, cosa ti devo rispondere? Ehi, vabbè. No, perché c'ho lo schemino, ho preso lo schemino, è tutto canto. Però di così, ma non esci di radio. Entra l'importante, ma non esci di radio. Boh, lo so io. Io sono ignorante, Mattia, sono ignorante, non ti posso rispondere. Tu parla di fattate di secco, di cose, però non fammi dare schemini. Sì, vabbè. Andiamo bene, andiamo. Male andiamo, solo te. Attraverso l'evento, io. Anche se dovrei sulla minuti, no? Sì, a 80 km orari era. Ma va come sta baciata Nutti? Ma qui è già passato un bel po', c'è vento, ma è già calato, ma stanotte sentivo proprio il fischio a tutto bruciato. Sì, stasera comincia a calare, ma che andata Nutti non viene più, vedrai a domani. Ma domani non viene, vi già la cacca temporale domani. Perché domani devo andare a volare, vabbè, va. E facci, e facci. Pazienza. Oh, bisogna vedere come lo porta via il vento. Probabile, non facciamo un giorno. Probabile. O ci sarà qualche nuvole fantuzzi. Chi sa sempre, beh. Ma c'è sempre. Come al solito. Bene, bene, bene. Oia. Il cane viene a cucire, sì. L'ha già rigato i rani di zinco. E allora già forse. Poi esce alle 9, così, 9:30? Sì, 9:30 esce. 9:30, ci ritira e arrivederci, dici. A domani, a voi no? A domani a Manzano. Quando vado a prendere, se non sta piovendo, vado a prendere il giornale. Ti faccio la grande passeggiata. E poi rientro. Sì, perché non hai abituato tu a andare da cavalieri. Non dovevo abituare, se mettevo qualcosa da ricordare, un cestino e andavo lì da solo a prendere il giornale. Sì, domani. Ma la volta giuro ce ne giunta raggiù da fare un negozio da Lagona. È un casino, ecco, un casino. Se tu hai disabituato il cane, vai a cavalieri, metti i soldi, tu non fai più nulla, hai capito? Buonasera, persona che vuole entrare. Buonasera, signor Marino. Buonasera, signor Tore. Se ci avete preso questo buon uomo, Paolo Stazzone, voi cosa dite? Bene va. Dai, Marino. Tutto ok, Giulio, tutto ok. Adesso sta tentando, dottore, ma non riesce. Ho detto di stare calmo, pazienza e quello stretto. Bene va, Giulio. Sì, così va bene. Dai il retto a Marino quello che ti ha detto e vedrai che prima o poi sarai più fortunato. Usa da loro. Vai tu. Ciao Giulio, però dietro ti porti un'alternata, ti porti, c'è un rumore. Aspetta, mi sei salito, ecco, cos'è questo? Ecco, adesso c'è solo l'alimentatore che suona, il resto non lo so. Sì, c'è anche la ventola che si sente. Vabbè, aspetta che c'è un altro dietro di te, c'è che vuole entrare. La può entrare. Io entro, non entro, se lo qui afficcio tutto quanto con un lucchetto, no, via, entro, non entri. Non può entrare, anche se la voce mia non può entrare, no. Babbo, sì, te ma sei un attimo che non riesci da fare lo spettore, e poi mi sono in la comunità. Vabbè, quando me lo stai facendo questo spettore, Tore, posso saperlo? Che mette lo attacco all'M+5. Mi mette di portante, però non vuole uscire. Una cosa c'è scritto così. Ma c'è giambato i bili. Ha detto che no, forse ve la aggiungerà che filo. Abbassato. E cosa abbasso? E cazzo si è giunto bla bla bla. Ma se gli altri mi ascoltano bene, Gian Marie. Ti stanno ascoltando bene, vero Giulio? Sì, ti ascolto bene, non c'è problema. Ciao Gian Marie, ti ascolto bene, no, poi no, ma sei d'accordo, io ho capito, sono in M+5, ma in quale radio però? Se non mi dire che radio, non ti posso rispondere. Vabbè, io lo sento così, vabbè, dai, non importa, dai. Continuate a rientrare dopo, dai, ciao Giù, comunque, ci sentiamo, riprendi tu. Ok Gian Marie, no, non lo so, io, andate, comprendi, signor Marino? Guarda che Giulio ti ha fatto una domanda a me. Adesso in quella radio la ricollegare con persone, capito? C'era in quella radio, lì si può dare qualche spiegazione, se può. La radio è quella che sto usando ultimamente, l'Incom. Ho capito. Sarai più fortunato, ritenta. Forse non è scaldato bene il saldatore. Scaldalo domani, scaldalo, che sarai più fortunato. No, è che sono tre figli. Però li ho cambiati, la leggo, non è qua. Non me ne dà di... mi dà solo la portante, bu. E poi il figlio è vestito. Vabbè, se tu hai solo la portante, cerca la tuo filo dove c'è la radio, tocca con le dita, uno quando tocchi con le dita, quello della radio ti fa un ronzio toccando con le dita, è quella della radio di trasmissione. Va bene, dai, piano piano già ci arriva lo stesso, non è un problema. Ciao Giovanni, perché te ne stai andando? Adesso che mi stai arrivando 9 più 10 oggi, a differenza delle altre volte che mi stai arrivando 9, se ne vuoi andare. Come te sta storia? Ciao Marie. Un attimo, giù che sto facendo cose. Ah, ok, Giovanni, d'accordo, dai. So, perché ho visto che hai migliorato anche abbastanza di segnale. La roba che ieri si è arrivata a 9.10 adesso, in questo momento anche. Andale, Marì, dillo il tuo attore come deve saldare il film, vai. E così è. Ma se lo sai che... alla sera ci tira del vento buono con giù. Alla sera ci sta tirando un vento buono. Hai capito, attore, come si salda? Metti a scaldare con il saldatore, quale saldatore sta utilizzando? Quello è esso. Ah, non è fatto di saldatore perché i figli sono saldati bene. Solo che ci devo portare qualche altro filo forse. Sì, piano piano domani mattina me lo provo. Scusa, lo schema non ce l'hai. Ma se lo schema c'è proprio a sbagliare, apri lo spinotto di quell'apparecchio e coppi, no? Scusa. Fatto tutto, già è così. Fatto tutto ma è la stessa cosa, Boh, è un po' impossibile, ma. Va bene, avanti giù. Ok. Attento al filo dove c'è la corrente. Perché se lo puoi bruciare la radio, mi attento, stai molto attento, per cui fai molta attenzione, col testo trovati fino dove c'è la corrente, dottore, non fare quell'errore. So già dov'è quello della corrente, lo so già dov'è, no, lì non ci devo collegare nulla di quello. Appunto, attento, non collegare qui perché se no ti basettiti, se no come un l'attacco da voi, bibù, fa attacca di bestarelli. Vero Mari? Andiamo giù, bobo. Vediamo se il signor Bacchiso ha terminato il lavoro che sta facendo. Attenzione gigante. Presente. Hai visto? Conosciamo le presenze. Hai terminato? Quasi riuscito. Dovrei controllare il segnale, Bacchiso. Basta il segnale. Adesso va bene, là. Io poc'anzi non ti sentivo, è zero, mi porto a zero. Adesso ultimo. Ti mando avanti il signor Giulio, allora avanti Giulio per Bacchiso. Ciao Bacchiso, ben entrato e ben ascoltato. In effetti hai ragione. Al primo impatto era solo 9, poi è arrivato a 9.18 Bacchiso, così vuol dire che non aveva fatto bene le cose. Ciao Bacchiso, riprendi. Ok, ciao Giulio, buonasera. 9. Che calato? Si è sceso nuovamente Bacchiso, il segnale. Si è sceso il parecchio anche, ma controlla tutto Bacchiso, avanti to. Infatti, se è così, si è abbassato tutto in una volta. Infatti Bacchiso, guarda che addirittura ho guardato bene, stavi arrivando a quest'ultimo passaggio appena Santiago 8. Però precedentemente, quando hai iniziato, quando ti hanno chiamato, hai fatto da 9 a 9.18 e adesso sei di nuovo sotto 9. Adesso va bene Bacchia, adesso va bene, adesso è 9 più 18, quasi 9 più 20. Torra basso e bubu. Ecco qua, vedi. Chi è cosa sta fanno sotto. Un momento qua. Sei risceso, sei calato. Sì, al momento funziona, adesso sta funzionando, vedi? Adesso sei di nuovo a posto, sì, è 9:20 quasi. Ma è strano però, come mai? Com'è questo problema che da 9:20 scendi a meno di 9 qui da me, ma che cosa è successo? Ma non saprei, l'ago non mi caricava, adesso sta caricando. Adesso la modulazione è piena. Poco fa non niente, zero riporto zero. Sì, 9:20 pieno qua, è modulati anche 9:22. Però in certi momenti abbassa addirittura a 9. Boh, vabbè, controlla bene, ma che qualche contatto che non è perfetto. Avanti Tore. Andiamo così, a volte arrivi 9:20, a volte 9:30. Se me lo metto in macchina arrivo 9:50. Sì, sicuro sì. Ah, vi sai. Malino, adesso come ti sto pompando? 9:20, va benissimo, va che 9:20 quando arriva. Il padre ha acceso, adesso ha acceso il padre. Va benissimo, allora avanti giù. Sì, adesso così va bene, ma che così è ultimo. O 9:20, modulate 22 addirittura. Va bene, hai visto che l'hai avuto. Però impara. Ehi, piano piano. Stasera ho fallito Tore. Ciao, con l'affare di stamattina. Mi dà stazionaria, tre di stazionaria mi dà. E devo trovare il segreto dove è la perdita. Aia, andiamo a vedere. E sai che dovessi allungare il pezzo di mezzo? No, devo tagliare, devo accorciare il pezzo di mezzo, accorciare i radiali. Quello dell'altro giorno, solito, ho fatto così, a occhi chiusi, 1, 2, 1, 3 di stazionarie. Ma non sono tutti britici, signor Bacchi. Quello domani mattina la piazza in campagna, voi, per quale costruiremo un'altra. A 14, ti posi appresso dei splatter favolosi, Quella è roba di propagazione, deve essere, Mari. Sicuramente, se ne stanno chiamando sotto il sole. Tore, sotto accento ti sei messo? Ah, non lo so, cosa mi vuole buoni appresso, e di rivura. C'è più posito? Addirittura. Propagazione, tu, propagazione. Contro la propagazione non hai difesa. Infatti. È così, infatti. Qua non c'è nessuno, qua è chiuso lo squelce, non si ascolta nessuno. Fai bene, non ascoltare modulazioni di interferenza, ma chi non ascolta, fai bene. Ma poi devi ascoltare le chiacchiere degli altri, basta che le chiacchiere le facciamo noi. Che siamo troppo chiacchieroni, vero? Non è possibile. Va bene, dai. Adesso stai andando alla grande, mi bacchi, vuol dire che hai scaldato bene, ti sei messo proprio con le calorie giuste. Sotto le coperte l'ho messo. Ciao Bacchino, mi piace la narrazione, capito? Ti sento cupo se non esagio, vero o giù? Sì, la radio non è molto forte, però già si capisce. È un po' cupo, appena un cupo è come se uno si stesse mangiando un microfono, così, più o meno così, Bacchino. Ma già è facilmente digeribile comunque se te lo mangi, Bacchino. È il grande che sto mangiando, il grande, giù. Capito? E lui è malandato. Sì, chiaroforte. Poi fagli il capo nuovo a Bacchisio, così almeno esce bene anche di radio. Poi riprendi. Mi si dispiace, ma di quello non ne ho. Ci vogliono i connettori da 9. Ci vogliono. Andiamo noi, andiamo dopo. E se cos'è anche giù, anche la... E la voce da Bacchisio un po'... È un po' fredda, vero Bacchi? No, sto cercando. Perché cambi di segnale, mi da 9:20, arrivi a meno 9, attento, controlla bene qualche piede che non è bene in contatto, poi per quanto riguarda la voce fa i gargarismi e non se ne va mai da più. Strano questo calo di segnale così improvviso, Marì. Non è vero? Sì, sì, scala proprio improvviso. Siamo per 20, casa 9, 8, boh. Anche la vocazione è scesa poc'anzi. Avanti, ciao. Sì. A volte arrivi forte, a volte ti abbassi. Penso che sia qualcosa che non fa ben contatto, ad esempio so, un PL che la, magari la massa, la calza non è bene in contatto, una cosa del genere dovrebbe essere, boh, comunque già lo trova, dai, già lo trova, ma chi se è esperto che va, più va 50 anni di frequenza va, per lo suo modo, vero Mari? E allora, vediamo se l'ha provato, Battizio. Non lo può essere qua. Il rama cala, capito? E si fonde poi si parla. Guarda come si cala adesso. Sta ancora calando? Non mi segna giusto qua. Il segnale è ottimo, la manipolazione è alta, poi si abbassi. Comunque va bene, insomma. Qualcosa c'è, qualcosa sta toccando, capito? Tocca ma non tocca. Tocca ma non tocca, non lo puoi giuro per me. Sto uscendo questo. La prossima potente non c'è qua la volontà, una limitazione è scarsa assessore, vedi? Adesso non si è abbassato che sei troppo saturo. Aspetta, l'assessore non è il caso, non potere, si fa un mister, mi fa la calare ogni tanto. Ma dovresti abbassare, sei saturo, non si capisce nulla, abbassa leggermente. Troppo basso si vede. Questione di microfono. E lascia così direttamente, vai. Devo. Ma chi? Adesso hai un chilo di patate in quel microfono e ti completo la modulazione. Tutto bu bu bu. Adesso sì, è completamente sparito. Ciao Giulio, buonasera. Ciao Franco, buonasera anche a te. Vediamo un po', c'è anche Tore, Bacchise e Marino, vai Fra. Certo Bacchise, certo Marino, certo Tore, certo a tutti i quattro, certo a me da Bacchise. Ok, riprendi Tore, dai, è entrato Franco, già l'hai sentito. Sì, ma giammai abbassano la propagazione, lo passa. Ciao Fra. Mi hai sentito stasera, ma giù mai di bassa la propagazione. Ciao Tore, buonasera, è QRM a Nastro, ciò qua. Figuriamoci. Vai Mari. Ciao Franco, mi hai sentito, avanti. Ciao Mari, non so se lo sento perché c'ho il QRM, mi sta ammazzando. Ammazzando, qui c'è un vento di merda, scusate la frase che non ce ne so più. Poi a tutti lì. Faccio va bene, una bella modulazione, bella forza, vai, arrivi bene qui a ottava, avanti giù. Papà, ti potrà cambiare rapporto, 5 robe Mari, non lo devo fare io, sono in un posto, capito. Ok, grazie Franco, avanti Giulio. Ok, sì, la modulazione già è buonissima, anche il segnale, per, essendo lì in quel posto, come dici tu Franco, il segnale già è discreto, Santiago 7, la radio è fortissima, la radio supera abbondantemente qualche disturbo che c'è di propagazione. Vediamo se Bacchisio ha sistemato la situazione. Bacchisio. Io vedo un po' adesso. Ciao Franco, buonasera, ben ascoltato. Non so se mi stai ascoltando, fra avanti. Ciao Bacchisio, buonasera, rapporto per te 5-8 qua, scuola di campagna. A Campagnolo sei oggi, proprio per quello è... Oggi sono in campagna, ogni tanto bisogna cambiare, dalla città alla campagna. Io ho capito, fra sei in campagna. Vai giù. E allora, così è fra. E in quelle perre io come ti sto dovendo di segnare fra? In quelle perre dove sei tu? Qua sta arrivando 59 più 10, Giulio. Caspita quanto sono forti oggi. Oh, va bene che ero tutta la notte sotto accetto, e anche per quello, per quel motivo lì ero tutta la notte sotto accetto. Lo sapete quel trucco, marito? Ti metti sotto la cesta e vai bene. Stavolta provo anch'io, là. Stavolta faccio una prova. Bella radio, fra, una bella radio, eh. Bella spinta, proprio. Ottimo, avanti, Tore. È così, eh. È così. Ci vorrei mandare così, se no andiamo a piedi. E se non piedi la bicicletta, Otto? Allora, ti va chi? Sì, è così, eh. È così. Sto guardando qui, va bene così. Aspetta adesso un attimino che cambio radio. Lascia questa, ma che va bene questa, un bel segnale per la radio, dai. Ok, avanti Franco. Sta facendo la carne 80 M60. Ottimo, proprio ottima radio, bella spinta proprio. E come ha detto Giulio, avanti Giulio. Sì, Franco non ha problemi in radio, la buglia. Franco è c'era grande, veramente. Per cui, meglio di così, te lo credo. Trovare il tuo aiuto ancora chi anda a piedi, ma io vado a piedi, al massimo domando un viaggio a Graziano e mi posso dare un passaggio con il motorino che si è comparato, dove? Mambo, Edo, si tratta di un motorino, devo andare a piedi e me la posso a piedi, piano piano, almeno un pochettino così faccio un movimento, ma sta sempre fermo. È uscita bene la mia gheggi, vai, che te lo faccio qua, insomma, calorie, ui, Marì. Esatto, già sei magro, vuoi rimagrire, non da bene, no. Bisogna levitare un tanto, devi smettere di camminare. In 2:48 va benissimo, eh. Ora gli ho mandato un messaggio, Graziano, un'altra volta, forse per te va benissimo, non so se ci sei arrivato, avanti ciò. Finirà. Già non rimborso più lei chi si moto, figuriamoci se me la devo pigliare io. È meglio andare a piedi, io già posso camminare. Se incaccia la faccia cammino. Vabbè, ma sono utile con le moto, va bene, per una che ha problemi va troppo bene. Vediamo se Bacchisio è entrato, Bacchisio? Bacchisio è entrato, avanti Franco. Cappa di resistivo. Maria, tu mi ascolti bene lì a casa? Segnale buono, no? Sempre uguale, basta o ha variato. Mi interessava la radio, c'era bella, potente e composta. I segnali sono sempre belli, sentiamo 7 qua, io ottavo, la radio, ma ti posso dire che andava la radio, supera tutti con la radio, ti sento una radio fortissima questa, bella, ottima, avanti. Capito positivo, Tore mi ascolti, sì. A voglia, signor Tacco io, Tata, a voglia, ma dimmi una cosa, ma musica c'è lì vicino? Cosa, ho capito, perché c'ho un po' di QRM, ma ferma i tuoi filtri. Stavo dicendo, c'è musica vicino. C'è un'altra vicino, Vittore. Quanto Vittore arriva bene, dai, ci farò questo che arriva. Radio buona, mi uscita la grande, non c'è problema. Vai Giulio. Ok, fra. Andirei alla grande, non c'è problema. Sai cosa va? L'orchestra sinfonica di Zosso va vicino, Tore, per quello che senti la musica. Vai, Tore. Della musica di generale, intendo. Franco, ma il concerto di Tesei Frendi, vero? Io non intendo, è la verità, il tuo concerto. Ma Tore, intendi che concerto? Ma tu non è che sei prendere un bulbolo? Concerto, è da concerto. Non lo so quello, ha detto che fai la musica di zio, dove? Tu musica venai di zio. Musica, fa la televisione da su. Hai visto, quello è mi, Tore, quello è mi. Il televisore che sta disturbando la modulazione del Franco, che poi non se non di tu proprio più nulla. Io sinceramente non lo sento. Va benissimo, un bel microfono, una bella modulazione, bella, corposa, forte, chiara, luccicante e soprattutto molto ma molto presente. Vai Marì. Giustissimo, io ti appoggio, va benissimo, io musica sinceramente non sento. Ma hai sapesa sotto di tu. Ma se scendi male, altro è così chiara, ma se scendi male. Non ti piace la radio adesso, no? Boh. Cosa ha giambato? Radio ha giambato. Radio, non ha giambato nulla, no. Giulio, non adesso. In questo momento sì, è più basso, è già è abbastanza comprensibile. Ma nel passaggio precedente, quando ti ha fatto l'osservazione del sole, in effetti c'era un po' di saturazione, non so per quale motivo, ma non è che ti sta contagiando Bacchisio per caso? Ma chi? Eh beh, ma perché stai contagiando a Marino? Bacchisio non ha terminato ancora. Cosa passaggio, dottore, se va bene? Adesso si è apparato più chiaro, ma cioè è un coso di una specie di saturazione. Non è giambato il radio, è giambato no, negativo, è passato un autotreno vicino e mi ha fatto sasso, va? Avanti, fra. Scappa, scappa. No, io già sto bene, poco fa c'è uscito il basso del radio, però... La, diciamo la modulazione va bene, dai, è abbastanza di lusso, come si può dire. Andiamo, vai, avanti, giù. Ok, Mario, no, già va bene, dai, già va bene. Poi se stai usando il baracchino, già va bene Marino, non c'è problema. Io, vabbè che noi siamo anche vicini, tra l'altro, però già va bene, qui da me va benissimo, non c'è problema. Andare. Ma Bacchisio cos'era Guminelli? Bacchisio ci si? Allora stava cambiando il radio, stava cambiando, boh? Ma radio o microfono sentito, non lo so. Bacchisio, gigante. Andiamo. Buonasera Luca, avanti. Buonasera signori, mi ascoltate, cambio. Ti ascoltiamo bene, forte e chiaro, cambio. Un'antenna da niente, arrivo dappertutto. Ciao Marino, grazie per avermi fatto entrare, come al solito. Ciao Giulio e ciao Ottore, riprendi Giulio per girare, cambio. E io cambio per gli altri. Avanti Franco, per Luca che chiede il cambio. Franco, sei andato a chiudere la televisione? Franco, è andato in discoteca. Bene, avanti, ciao, è per Luca. E che è Franco? Dopo ne intendi. Ciao Luca, stammi bene. Tu pure dicevo che sono tazzito. Andiamo. Riprendi Mari. E un attimo c'è Gianni. Non era Gianni quello, mi sei andato Gianni dopo il calcio d'inizio ho fatto l'arbitro. Non sento nessuno giù adesso. Franco, non sento il piatto da lontano. Avanti giù. Franco è andato a Crabbiunà la Viga. È andato. Dai che buono fa. Bacchisio sta facendo con il microfono. Gianni dopo il room, se era lui non vuole entrare. Luca, avanti. Luca si prende la doccia. Bobo, stavore, riprendi tu. No, giù, già fatta, mi stavo vestendo, dai, che tra un po' esco. No, è che Gianni non lo sento io, eh. No, mi era sembrato Gianni, perché c'era stato un break in sovramodulazione. E dunque, magari mi sono sbagliato io. No, giù, se non rispondo vuol dire che mi sto spostando da qua, dai, riprendi tu. Ello. Andiamo. Dai. Ma adesso è al monte, Luca, voglio la Lateroce. Non ho capito. Dove sei, al monte o la Lateroce? No, la Lateroce. Ok, dai. Bene, vediamo se Bacchisio è entrato, Bacchisio. Vedi un po' adesso. Ok, dai, ci avevo sentito, tocca a nulla. No. Nulla, no. Qualcosa che non va. Ma non mi piace, si è sparito nuovamente. No, stazionali a Carasci. A camion con rimorchio. Bombo! Franco, sei rientrato? Guarda Giulio, sto migliorato la segnale adesso, 1, 2, 3. Sempre uguale, 7, sempre 7 da metà, ma va più che bene, considerando dove sì, va più che bene. Appagata, andare dai, ok, che stavo dicendo, ferma. Bacchisio non sta uscendo, come mai? Il problema sicuramente è giù. Bacchisio ha problemi di microfono probabilmente, perché il segnale sembra che è riuscito a stabilizzarlo, però era basso del radio e poi aveva qualche inceppo anche nella voce. Evidentemente il microfono ha qualche problemino, ma era ciappo a Bacchisio già sa fare quello che si deve fare. va bene, dai. Vediamo se Luca ha finito di vestirsi. Luca, quando grazie così ancora. Si è spostato di salsa, dai. Si è spostato di salsa. Avanti Marì. Ok, ritorno io, approfitto che devo uscire e vi saluto. Ok, ciao Giù, ben sentito, domani si è concile. Ciao anche a Tore, ciao a Marco, a Franco, ciao a Bacchisio, ciao anche a Luca, Saltoni, tutti gli ascoltoni e per me QRT. Avanti Giù. Ok, ciao Marì. Grazie della chiacchieratina, a domani se coincide. Buona passeggiata e buoni affari e sogni d'oro anche per stanotte. Avanti Tore. E domani devo andare a pagare, l'hai preso. Mimo dove entrare, mimo alla rua per andare bene. Alla sei si deve uscire, avanti Tore, ciao. Ok, ciao Marì. E buona cena e tutto quanto per stanotte, ok. E buon lavoro per domani mattina. Ok, riprendi Luca. E non ti affaticare troppo, Marì, perché sennò domani non hai voglia di modulare. Domani quando vai al lavoro, fai quante basi di tutti gli altri impiegati del comune. Ti sa se non puoi usare le candele non fai le mai nulla. E uno più stanco dell'altro. Ok, riprendi Franco, domani, ciao. Ciao Marino, buon tutto, ce la riascolta a domani alle frusce, buon carica batterie, ce la devi fare e buona giornata per provare, dai. E lui che va a Sardegna sempre, ogni tanto, diciamo quando c'è tempo. E guarda che lo sto dicendo con me lo flotto lui, a riguardo devi prendere il comune, perché io avevo adesso è in pensione, ma avevo una cognata che lavorava lì, è la prima cosa che mi dice, tutti si aiutano, non fa niente mai nessuno, ecco per quale motivo tutte le commissioni sono indietro al comune, perché nessuno lavora. Praticamente la giustizia sta rubando tutti quanti lo stipendio. Bene o male sì. accetto la tua sincerità, Giudito. Adesso è in pensione, ormai non c'è più. Ma era così, vabbè, sai. Comunque, non è certamente il caso di Marino, che si deve essere domandato quando travaglia. Vai Tore. Infatti. Già è così, qualcuno si è vissene, qualcuno è andenne, qualcuno è torrenne, vabbè, già per muovoci noi buru. Signor Bacchì, vabbè, finì da vemmo. Dicevo, solo che la mia casa c'è passa dietro, un mese di modulazione, ho capito perché. Sarà il televisore. Lui è un CB internazionale, che è sempre in compagnia della popolazione, è per quello. E per quello qua, purtroppo, cosa ci vuoi fare? Evidentemente la propagazione incomincia a disturbare. No, perché praticamente quando lui parla, stavo dicendo, ci porta dietro tutte le modulazioni, capito? Ma forse è la televisione accesa a casa, sarà quello che ti confonde, può essere che sia così. Sì, anch'io sento delle voci in sottofondo, però non mi danno fastidio, la verità. A lui lo sento benissimo, non c'è problema. 9+10, la radio è abbastanza buona, poi quello che si sente sotto non lo so. Forse c'è gente nei paraggi magari che a lui ha un microfono sensibile ed ecco che entrano le altre voci anche, sarà così, non lo so. Vai tu, spiegamelo tu, perché io non lo so di più. Guarda a vedere adesso se senti qualcosa, fa qualcosa senti adesso. No, si sente come gente sotto, ho capito. Come ci sia gente sotto, queste numerazioni che le porti tutte appresso e io le sento da qua, capito? Scusa, dico io, anche a te, Fra, anche a te, mentre stai modulando sento modulazione in sottofondo. Ok, riprendete, scusate, riprendi Tom. Ok, Marì, no, anche a te, Fra, si sente. C'è uno spagnolo insieme a te che parla. La propagazione sta salendo. Infatti non l'ho immaginata. Secondo me è proprio la propagazione, perché questa modulazione, se tanto di quelle voci sono prevenuto. Sì, ma è così la propagazione, ma è da poco fa che sta incominciando ad aumentare sempre di più. come segnale più o meno quello tuo come segnale della propagazione, intorno al 7, solo che c'è la differenza del radio, chiaramente sento delle modulazioni bassissime, però si sentono, in sottofondo si sentono, ma non mi danno fastidio, a me sinceramente non mi dà nessun fastidio. Vediamo se Bacchisio ha risolto il problema radio. Avanti Bacchisio non ha risolto, vabbè, fa dente. Vediamo se c'è Luca Flipper, oltre a Luca Manicomio, anche Luca Flipper. Luca Flipper, ci sei in ascolto? Batti 1, 2, 3 colpi. No, ma deve essere cruciato un beccaggio, Luca. Dunque, per quello che non entra in frequenza. Claudio, ci sei in ascolto? Claudio, è a Mulino a vento, a Pigliavento. Claudio, ci sei? No, non c'è, se no sarebbe già entrato, là. Va bene. Ma a proposito, Maria, ma tu non riprendi, o sei sempre all'ascolto? Nemmeno Germania riprende, insomma siamo rimasti io, Tore e Franco, praticamente Ciappa, Ciappita e Malarrazza, li drenerei della piazza, vai tu. Così sempre, così rimaniamo, va. Purtroppo è così. Andiamo bene, andiamo. Vabbè. Meglio entrare. Se Bacchi ci ha finito, Bacchi, finito hai? Ha detto che no, vabbè, riprendi fra. Bacchi, ma ora che è successo? Ma purtroppo non ha funzionato. Va a far dire a pigliare un uovo. Ma cosa sta arrivando? Lo sei bene, Bacchi, non ho capito perché ci ha passato. Non è discorso così il segnale. Non lo so nemmeno io. Ma evidentemente ha qualche falso contatto. Evidentemente è così, Ma adesso sta sistemando il tutto. Sta sistemando il tutto. Lasciamolo fare che Bacchisio già è in grado di risolvere il problema che ha. Per cui meglio così. Vai tu. Infatti. Facciamo così, facciamolo, deve risolvere il problema, e va bene, ci assemblino anche noi, sino all'otto ci assemblino. Ma secondo me Giulio c'ha problemi di stazionarie, un bel. E beh, ci siamo? Tutti pariti? Ho detto Giulio, sicuramente c'ha problemi di stazionarie. E così ha detto, che mi aveva un calascio, un camion di mulcio, pieno di stazionarie, aveva detto così, prima di chiudere. Se c'è una meditazionaria e conviene fare passaggi corti, anche se non originali, attimi subito due. Ma non tirti, e da poi devo l'attacco per attaccarli di nuovo. vabbè, cose che succedono. Tu con questo ventaccio, ragazzi, perché da quante antenne ha rovinato così in questa notte, con questo ventaccio che c'era. Infatti ho detto io. Quando sono sceso in campagna ho detto, ma sicuramente i polveriti mi hanno fatto l'antenna in terra. Ah, la mia ha detto che già è dentro io ancora. Cazzo, da me che è soffiato forte stanotte, ma forte davvero però. Si sentiva, ragazzi, che il sibilio del vento si sentiva durante la notte, che se uno ha il sonno leggero si sveglia anche. Comunque si piega, la Game Master si piega abbastanza di, non eccessivamente, però abbastanza già si piega, però non si rompe, alla grande, anda bene, nonostante il tempo del vento fortissimo. Addirittura ha dato 100 km orari, 180 km di burrasca addirittura ha messo. Sì, lo so, suppongo che sia arrivata a quella velocità, io penso che sia proprio arrivato durante la notte, però la Game Master è collaudata per 160 km l'ora, per cui ha retto bene, avanti Ito. Infatti è così, è rientrato il signor Bacchisio, avanti signor Bacchisio, sì, e beh, attenzione che erano i vizzini, gli erano i gurrino rappesi tutti e due, attenzione, allora sì che eravamo pimpanti. cambiato radio, stavo frugando, non riuscivo a fare nulla. Andale, adesso mi ascoltate, sì o Emmo? Emusi. E Marino dov'è? Ha chiuso Marino ha chiuso ed è bagnato. Aveva un po' di ostriche a casa sua e lui sta preparando un po' di bracciole, sta preparando, ha un'epase, manna un metro per un metro, con la meraviglia un metro per un metro e l'ha riempita tutta di bracciole. Boh, andiamo verso. Vedi che sta gira Vigio Bissecchi. Andiamo verso. Vabbè. Signor Fra, ancora Vigi. Già che sono, giacci. Andiamo, dai. Entra nella propagazione, è come se ne abbia l'anima serena. Vai, ma chi? La propagazione sta affacciandosi, lasciamola affacciare. Ci sono gli amanti delle 10, ci sono, sul 10 ci sono altri amici. Vabbè. Gli spagnoli si sta portando appresso a Franco. E porta Torresi noi. E noi avevamo tutti le butte Torresi. È vero, ma è proprio così. Già è la sinara, insomma. Fra un po' che arrivi. Ma con chi fumare il vero, penso che si vermiani. Ma sono come delle baleni, più fai o male, più sono contenti. Ecco qual è il problema. Hai visto tutte quelle balene spiaggiate, cazzetta, che gli uomini l'hanno dovuti reintegrare nel loro mondo, perché erano nelle acque basse e non riuscivano ad andare più avanti. A migliaia di balene, non l'avete visto in televisione? Giulio, quale ce ne sono? Allora, oggi erano 16, hanno fatto vedere oggi erano 16 morte, tutte le altre sono riuscite a farle andare. Lo durmo l'hanno attaccato. Casita, bravo quello, ma vabbè che sono esemplari grandissimi, ragazzi, sono di un quintalaggio indefinito, sono delle bestie enormi. E quando c'è bassa marea per loro non è adatto. Si vede che toccano il fondo, dopo si arenano. Avanti signor Bacchi. Sì, ma è Santiago Nove appena, hai messo 20 decibel, hai messo, cioè 20.0 si è perso, ma chi qua?